cierto pie de una ferita, el camino de una vida, che. Wow, wow. Va a probarne l'esperienza, una bella differenza, che. Wow, wow, wow, wow. Ed è questo che ho provato quando ieri tu mi hai detto no. Ma ti sfiderò. Con te lotterò. Parola d'onore. Se non ci riuscirò, allora perderò. Allora perderò. Questo giorno sembra eterno, dentro l'anima l'inferno. Oh, oh, oh. Se ti penso io sto male, la sconfitta sa di sale, sai. Oh, oh, oh, oh. Mio amore trasparente sta morendo lentamente ormai. Oh, oh. Ma ti sfiderò. Ci rio.